storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera a voi tutti, cari ascoltatori, da parte di Gesi e di Antonio. Oh, eccoci qua Antonio anche stasera per intrattenere i nostri ascoltatori con un'ora piacevole, speriamo perlomeno. Noi ci tentiamo. Ecco, prima che tu prenda la parola Antonio, volevo dire che stasera avremo un ospite, un amico diciamo, perché ha fatto parte di tante nostre trasmissioni. Però la presentiamo appena tu hai letto le tue coordinate. D'accordo, allora diamo il benvenuto alle amiche e agli amici su Blu Radio Veneto. Vi ricordiamo il nostro indirizzo internet www.bluradioveneto.it. Per consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro il nostro numero è il 346 23 20 033. Esiste naturalmente la possibilità di ascoltare in streaming oppure di effettuare il download delle nostre trasmissioni scaricandole sul PC. E diamo un cordiale saluto al nostro regista. Eh sì. Allora, io presento subito il nostro ospite di stasera, che è il signor Emilio Gallina, oltre che un ospite è un carissimo amico. Ciao Emilio, buonasera. Ciao Emilio. Buonasera Antonio, buonasera Jason. E benvenuto. Grazie. Ormai tu sì, sei abituato alle nostre trasmissioni. No, più o meno sai, perché è sempre una cosa nuova, è sempre un'emozione nuova. E infatti io sono a ringraziare te, sono a ringraziare Blu Radio Veneto per questo invito che mi vede un po' protagonista e ti ringrazio, anche se purtroppo devo, se mi permetti, devo dare così, come ormai tutti sanno, una notizia un po' luttuosa, cioè dovrebbe essere la festa della poesia e in qualche modo cerchiamo che lo sia, però è un giorno triste perché la poesia è in lutto per la scomparsa del poeta Andrea Zanzotto. Sì. E noi trevigiani maggiormente in lutto perché lui era nostro, diciamo, era nostro della nostra terra e ha cantato in particolare, come dicevo, la nostra terra, le nostre colline, il territorio, con stupende immagini nella parlata a Sinistra Piave, in particolare del Soligo. Qui a ricordarlo ci vorrebbe non una, ma una serie di trasmissioni. Ci permettiamo, mi permetto solo di ricordare ai radioascoltatori questa grandissima persona. Gli dobbiamo riconoscenza e esprimiamo le nostre condoglianze più vive alla famiglia. Ah, sì, certo. E anche purtroppo alla poesia. Comunque Emilio, ti stavo dicendo che eventualmente dedicheremo una serata proprio sì, beh, più avanti. Penso sia una cosa doverosa da fare. Appunto. Allora, vuoi parlare tu un po', cioè devi leggere una poesia? No, questo mi è venuta, sai, non è una parlata semplice da leggere. Ecco, così per farne memoria, è una poesia che mi è sempre piaciuta moltissimo, è quella che lui ha dedicato al parlare antico, al parlare vero, e l'avevo intitolata Vecio Parlar. E come dico, mi ha sempre molto molto commosso perché si va a rimangare le radici, e siccome che questa nostra parlata, questo nostro dialetto è nato con noi, con le nostre succhiato con latte materno, e mi provo perché come dico non è facile il discorso. E leggo un estratto, una sintesi di questi versi, e mi perdonerà sia della pronuncia e di questa, non so se l'ho massacrata. Vecio parlar che tu hai in tel saor un chip de latte della Eva. Vecio parlar che non so più, che non mi sia desconi di perdinte la bocca, né tu non me basta. Che tu sei cambia con la me fasa, con la me pel, ano par an. Parlar poret, da poreti, mascet, mafis, ma toc co fa una branca de fien pena segada al faldin. Perché m'baste tu? Ma intanto, qua par torno, a girar pa i marcà, o meglio, andar par campe, rive e zope, là onde che il gal de cristal canta sempre tre volte, da giuste bocche se te sente, mi ho perso la traza. dai. Sarebbe da tradurla, ma si accontentino così gli ascoltatori. Certamente, anche sì, perché appunto. È una potenza straordinaria, certo, diciamo, certo, di ricordo, certo, di certo. Evocazione. Io ci ho capito poco, perché già che sì, dialetto, sì, il trevigiano lo parlo, lo capisco. Sì, ma questo è da sinistra Piave, sai, sì, si avvicina molto, sì. Si avvicina al bellunese, per cui... Io ci ho capito molto poco. Te la tradurrò, sì, vabbè. Te la tradurrò. Ascolta Emilio, allora stasera che è dedicata alla poesia, però noi dobbiamo... commemorare una grande poetessa che era Adriana Scarpa. Sì. Però prima di aprire il discorso su Adriana Scarpa, ci ascoltiamo una canzone. Lei era veneziana di origine, vero? Sì, sì, sì, certamente era veneziana. Okay. È rimasta veneziana anche benissimo. Se era Treviso da sempre. Va bene. Allora, Come triste Venezia, cantata da Charles Aznavour. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. Si cercano parole che nessuno dirà, e si vorrebbe piangere, non si può più. Come triste Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te e non ti chiede niente, perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è soltanto lei. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. I musei e le chiese si aprono per noi, ma non lo sanno che oramai tu non ci sei. Come triste Venezia, di sera alla luna, se si cerca una mano che non si trova più. Si fa dell'ironia davanti a quella luna che un dì ti ha vista mia e non ti vede più. Addio gabbiano in volo, che un giorno salutaste due punti neri al suolo, addio anche da lei. Troppo triste Venezia, soltanto un anno dopo. Troppo triste Venezia, se no. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora Emilio, introduci tu questa grande poetessa che tu hai anche conosciuto, quindi saprai parlarne sì, meglio. Dunque, che dire? Sì. Di Adriana Scarpa ci sarebbe molto da dire. E direi, cominciamo così. Purtroppo il 19 ottobre del 2005, il tempo passa velocemente. Mamma mia, mi pare ieri. Che abbiamo fatto la... Adriana si spegneva nella clinica di San Camillo di qua, in Treviso, dopo purtroppo una, un periodo di sofferenza piuttosto lunga. E effettivamente ha dato una testimonianza anche dal letto poi dell'ospedale. Forse mi pare tu legga qualcosa. No. A questo punto io ho preparato una breve biografia che prego Antonio, se gli dà una scorsa e una lettura, lo ringrazio. Certamente. Bene. Adriano Scarpa nasce a Venezia nel 1941, dove ha vissuto la sua infanzia. Diplomato in ragioneria, dopo un'esperienza presso la Società Veneziana Conterie e Cristalleria di Murano ed una peregrinazione per lavoro in alcune città del Veneto come funzionario della Banca d'Italia, è approdata definitivamente a Treviso verso, io credo, gli anni 70 in Viale d'Alviano. Una poetessa di grande sensibilità che rifuggiva l'apparire. Infatti è passata quasi in silenzio nella città trevigiana, apprezzata e molto conosciuta, per contro, in ambito nazionale. Una donna vivace, innamorata della vita e della poesia, è stata scrittrice, saggista, critica letteraria e delle arti. Ha fatto parte di importanti giurie di concorsi letterari locali e nazionali. Sono oltre 270 solo i primi premi ottenuti in concorsi di prosa e di poesia in italiano e nella parlata della sua Venezia, che non ha mai smesso di amare e che ha cantato con versi straordinari in diverse sillogi poetiche. Adriana ci lascia un patrimonio di innumerevoli sillogi poetiche, iniziato con una prima breve raccolta dal titolo Poesie, edito da Gastaldi nel 1964, e che si è concluso con Incosciente saggezza, l'ultimo lavoro poetico che è uscito postumo nel 2006 per volere del fratello Ermanno. Alcuni altri titoli tra le numerose sillogi, tutte vincitrici di primo premio: Il libeccio fruga fra le nuvole del 1986, Di nome William nel 1989, In secula seculorum 1991, Cantari per acque e maree 1996, Alchimie per una donna 2003. Sì, è stata prolifica come versificatrice, ha scritto parecchio e questi sono, ne ho oltre 40, quindi c'era da perdersi anche nella scelta poi così delle poesie da leggere questa sera per ricordarla. Non è stato facile. E quindi scegliere quelle più, se gli ascoltatori si accontenteranno, daremo un po' un saggio della sua scrittura, un piccolo saggio. Sì. E tu mi dicevi, Emilio, che lei è stata, era più conosciuta quasi in campo nazionale che qua a Treviso. Sì, come accennava nella biografia, effettivamente lei qua a Treviso era un po' in ombra, non era molto nota, anche per colpa sua, sai, perché era piuttosto così schiva, riservata. Mentre in campo nazionale sì, bisognerebbe andare a scorrere un po' la stampa specializzata per vedere quante firme importanti, certo, hanno scritto di lei, capisci? Certo. Così un aneddoto, se mi è permesso, o vuoi mandare una canzone? No, vai avanti. Alcuni anni fa, adesso mi sfugge anche un paio d'anni prima della morte, Lucio Polo, che i trevigiani conosceranno, che è uno scrittore un po' molto simpatico, molto molto arguto, sì. E l'ha intervistata e ha realizzato un volumetto che ha dedicato, cioè ha intitolato, chiedo scusa, Adriana primo premio, ed è simpaticissimo, e in quell'occasione sia lui che lei diciamo così hanno messo in gran risalto la poesia e soprattutto Lucio Polo ha parlato appunto di lei in una maniera entusiastica, dando risalto e importanza a questa indimenticabile voce poetica. È stata presentata da Arman, nella trattoria da Arman in via Manzoni. Sì. È stato un incontro bellissimo, molto spontaneo, c'era ancora la Ettorina allora. È stata una cosa straordinaria. Ma così, tanti anni prima che un paio d'anni prima che si è stata rapida la sua discesa, come dire, la sua, diciamo così, scomparsa, sì. È stato un andare purtroppo veloce, perché da quando ha perso la mamma, che andava a Mestre a trovarla sempre, chiedo scusa, e ha avuto come un tracollo. Cosa vuoi, l'organismo sta presto a volte a cedere. Esatto. Bene, andiamo, proseguiamo. Vai avanti, devi leggere qualcosa. No, no, no, se vuoi mandare una canzone. Sì, allora mandiamo una canzone, e la seconda canzone in programma è cantata da Alain Barrière, Vivrò. Eccoci di nuovo in studio. Allora Emilio, continuiamo a parlare di Adriana. Beh, certamente, visto che la trasmissione è dedicata, certo, a lei. Certo, tutta dedicata a lei. Vorrei che Antonio eventualmente mi desse una mano per una lettura, ed è questo. Molti hanno scritto di lei, e quando l'anno successivo è stato fatto un memento alla Sala Verde del Comune, erano presenti un sacco di gente e anche personalità, Gian Domenico Mazzocato, il nostro scrittore, non era potuto intervenire e ha mandato una, come dire, una memoria, un breve scritto, e pregherei Antonio di leggerlo eventualmente. Così Gian Domenico Mazzocato, il 19 ottobre del 2006, in occasione del primo anniversario della scomparsa della poetessa, scriveva queste parole lette da Emilio nella Sala Verde di Palazzo Rinaldi, nel corso dell'incontro di presentazione della citata silloge Incosciente Saggezza, uscita appunto postuma. Scriveva così: «Quella di Adriana è stata voce autentica, essenziale, originale. Adriana ha fatto davvero poesia, e grande poesia. vivendo dentro il suo cantuccio d'ombra, come direbbe Pascoli, ha irradiato luce e ha comunicato la speranza che proviene solo dalle grandi intuizioni liriche. Ci ha insegnato ad apprezzare il valore della parola che serve a definire un momento, un'emozione, un sentimento, un atteggiamento. La parola giusta, raffinata, ricercata, calibrata e tuttavia semplice e immediata. Ha avuto il dono di una straordinaria sensibilità, Adriana, e con generosità ce lo ha comunicato. Gliene siamo grati. Non voglio dire che non la dimenticherò mai, perché spetta a lei, dove si trova, il non dimenticarsi di me e di tutti noi. Dove si trova, la parola è svelata, limpida, chiara. Noi dobbiamo accontentarci di parole a brandelli, insufficienti, povere. Allora, grazie, Adriana. Hai spartito con noi un privilegio divino, anticipandoci la limpidezza e la rivelazione della parola. Sì, penso che abbia espresso sempre veramente, in modo sì, certo. Poi Gian Domenico, sai, sì, è anche una buona penna, è un grande affabulatore. E adesso tu, Emilio, devi leggere ancora qualcosa? No, io ti pregherei, eventualmente, visto iniziamo un po' in giro di poesie, se tu hai la possibilità, la volontà, la gioia di leggere questo canto di Allodo alla Benissimo. Felice, che è tratto da Alchimia di una donna e un po' la gioia di vita. Benissimo. Allora, canto di Allodo alla Felice. Se apro porte e finestre ed esco da me, se muovo le ali della mia libertà e la gioia fa lievitare il peso del corpo, guardate là in alto, dove lo sguardo si perde nella luce, quell'incredibile aquilone che conosce i venti. Lassù è salita la lodola felice, quella che canta i giardini d'inverno, quella che accarezza i capelli del grano e possiede il segreto del tempo. Verde, radioso sulle mie foglie, sulle mani che vuotano e colmano oceani, tesori che cantano preziosi. Mi farò battacchio di campana e chiarina d'argento per conquistare voce rampicante. Porterò addosso memorie di stagioni, cavalli ed occhi di felicità. È molto bella, effettivamente molto sono bella. Tutte pregnanti le sue bella. Poesie. Sì. E se Antonio faccia una triade, una carrellata. Allora, se Antonio volesse leggere Tu sorridi con gli angeli, e questo è tratto da I bambini guardano la luna, perché la Adriana ha avuto particolare attenzione verso i bambini, anche perché purtroppo lei lo desiderava ma non è venuto, infatti sono delle poesie che parlano anche di questo. Da troppo tempo disconosco la gioia d'un sorriso come il tuo. Il mio si è spento lungo gli anni. Più non rincorro nei meriggi assorti sui crinali di nuvole, farfalle viola e gli elfi della sera. Tu sorridi con gli angeli, percorri sentieri di miele e di coralli, riso di piume, riso di cristallo. Con filastrocche incanti le conchiglie, il cielo dentro gli occhi, corri nel vento fingendoti aquilone, e sogni e ascolti i grilli nella sera e sorridi col capo sul guanciale. È delicatissima, questa, molto, sì, è veramente molto delicata, proprio sente una maternità mancata, tra l'altro. E invece, visto che tocca a me, ho dedicato un aspetto particolare di Adriana, è quella della fede. E da la sillogia In secula seculono ho tratto alcune poesie. E vorrei leggerne, se mi è concesso, non perché sono più bravo, ma perché si legano, due brevissime. Fai. Ecce Ancilla Domini e poi Il Natale 2000. Ecce Ancilla Domini. Maria rispose all'angelo e chiese in ginocchio il coraggio di essere ragazza madre. Il petto già aveva trafitto di spade fanciulla dai fiori d'arancio la dolce e sgomenta Maria. Martello scandiva le ore sui suoi palmi a inchiodare la croce. Natale 2000. Sei sempre tu il bambino sulla paglia? O non piuttosto il vecchio che ha percorso tutte le strade e parlato tutti gli idiomi? Dentro la nicchia della nascita nuova annunciata non c'è il piccolo bimbo di gesso, ma un vecchio che ha stanchezza di secoli scavata sul volto e una saggissima barba di quasi 2000 anni. Oggi, 25 dicembre, abbiamo bisogno degli occhi della fede per poter scorgere in alto la cometa. Anche questa è bella. Bene, Jesi, facciamo un'altra tria, sì. Conduco io, ti dispiace? No, perché io poco più che formica è un po' la continuazione dell'altra, grosso modo, che è, sì. Qua in Adriana cerca di lasciare una traccia di sé e certo. Credo ci sia riuscita. Beh, direi proprio, è anche una bella traccia. Noi siamo soltanto segni nel tempo, ma io voglio lasciarla la mia impronta come un fossile nella roccia. Io incalzo con le domande e ricordo i perché, incido l'aria con la mia presenza. So che il mio occhio è di formica a confronto con l'universo, ma come formica scavalco i muri, sono un punto scuro, vivo, mobile. Formica sono che combatte i ruoli, le strade già tracciate, il sole calcinante sulla pelle, e sinché avrò respiro, le mie antenne lanceranno messaggi all'infinito, minuscoli SOS dello spazio. Che qualcuno raccolga, che qualcuno comprenda nel millennio domani il mio struggente desiderio di sconfiggere l'oblio. È molto molto pregnante, sì, anche molto, questa. Sì, molto molto, sì. Ecco, come dicevo, Adriana amava molto Venezia e tra le tante che ha dedicato ho scelto Da acqua, salsa e tarabuso, città che in me voli. E Antonio, se me la legge, grazie. L'unica voce s'affida all'onda. I lumi sfavillano dalle logge, i mosaici come un trittico d'oro del 300. La canzone librata nel tempo senza peso si spande giù per il Canal Grande e all'Accademia, scoppia in perle rotolanti dentro Palazzo Franchetti, gareggia col vento sui tetti, danza sulle cupole spiegaste della salute. Mi riconosco nella tua voce corale e gemmante, città dei miei primi giorni. Sospinta, dondolata dolcemente, vado per te, che in me voli con le tue ali aperte. E infatti a Venezia, come dicevo, ha dato dei versi bellissimi. Ecco, io riprenderei sempre da In Secula Seculorum altre due brevissime poesie. È un po' strane, non strane, un po' diverse. Ci ha ricordato il padre di putativo di Gesù e Gesù bambino, quando bambino, ragazzino, e l'ha intitolata una Giuseppe, e dice così: aveva bisogno di un padre uomo per le apparenze, perché nessuno avrebbe compreso il miracolo, un padre per insegnarci l'obbedienza. Un padre che gli costruisce giocattoli di legno e biglie levigate. Un padre che lo portava a cavalluccio e gli cantava filastroche. Un padre che lo cullava a volte tra le braccia. E poi Gesù, ragazzino, perché come tutti i bambini anche lui avrà giocato, certo. E infatti si intitola Come tutti i bambini. Come tutti i bambini... Talvolta aveva il viso impiastricciato, le mani sporche dai giochi e insudiciata la veste. Come tutti i bambini, amava corse e ridere spensierato. Come tutti i bambini. Ed era Dio. Carina, molto carina questa. Bene, allora, adesso ci ascoltiamo una canzone, poi avremo al telefono Maria Luisa Scarpa, cugina della Adriana. Allora, la terza canzone è intitolata A chi, cantata da Fausto Leali. Eccoci di nuovo in studio, sentiremo Maria Luisa Scarpa, che è la cugina di Adriana. Pronto? Pronto. Maria Luisa, buonasera. Buonasera e buonasera a tutti. Qui abbiamo il caro amico Emilio. Gallina. Sì. Ciao, ciao Emilio. Ma davvero? Ma senti che sorpresa. Ciao, ciao Maria Teresa, ciao. È un piacere sentirti. Va bene. Maria Luisa, noi stiamo parlando di Adriana. Ecco, e così vorremmo sentire da te un po' cosa, com'era Adriana, come, sì, che tipo era, com'era. Ecco, io così parlando di Adriana, te la vorrei raccontare da piccola. Bene. Perché noi siamo vissute da piccole, nel senso che abitavamo a Venezia. Adriana non è la mia prima cugina. Suo nonno era il fratello di mio nonno, perciò mia mamma era la cugina del papà di Adriana. E perciò la vita a Venezia in quegli anni, pensa a te, del 41, siamo nate lo stesso anno. Lei è nata a marzo, io sono nata ad ottobre, perciò avevamo proprio la stessa caratteristica. Sì, eravate proprio coetanee, diciamo, sì. Per cui i pensieri erano quelli per tutte e due. e praticamente ci vedevamo all'incirca, non so, o andavamo noi da loro, loro venivano da noi, 2-3 volte al mese avevamo questo incontro. Dunque l'Adriana aveva un fratello e io invece di fratelli ne avevo tanti. Ho capito. Per cui lei si trovava bene con noi, perché sai, quando che i bambini sono pochi, non trovano nemmeno tanto da divertirsi. Poi quegli anni ci si divertiva anche con niente. Adriana, parlare di Adriana è parlare tanto. Ma com'era da bambina? Guarda, era... Monella. No, guarda, tu... No, non era Monella, era molto saggia. Perché avevo un papà che a me incuteva anche un po' di paura. Ilala. Perché era autorevole, sai, di quelle persone con gli occhiali, così dava un po' di soggezione. E invece no, era poi alla fine era la paura mia come bambina, diciamo. Dunque l'Adriana aveva invece una mamma che gli faceva tanti bei vestitini, tutti con volant, con jabot, con tutte cose, sì. Ed era sempre graziosa. In inverno lei aveva una cosa che io avrei bramato per avere, aveva il manegotto. E cos'è, scusa? Cos'è il manegotto? È un rotolo o di velluto, di pellicetta, in cui si infilavano le mani, una da una parte e una dall'altra. Per stare caldi. Quando faceva freddo. Certo. E se tu, guarda, se tu guardi delle fotografie vecchie di Adriana quando era bambina, lei d'inverno aveva sempre sto manegotto. Sì, che noi era de pede conicio, vero? Ma può darsi anche che già era de pede conicio, va ben che a Venezia i conici non esisteva. già era bestie sconosciute a Venezia. Non capito. Comunque, era graziosissima. Poi purtroppo Adriana, fino a 7-8 anni, dopo che aveva poliomielite, e ci siamo perse, perché i problemi di Adriana erano diventati diversi. Però io avevo sempre le notizie di Adriana, da parte della mamma che mi diceva, sai, l'Adriana... Dunque, l'Adriana a 8 anni... ha partecipato a un concorso del Gazzettino, per dire quanto lei era avanti già con la poesia a quell'epoca. Mamma mia, 8 anni. 8 anni, ha vinto il primo premio delle scarpe Superga, organizzato dal Gazzettino, ed è andata e ha portato tutta la famiglia a Napoli in vacanza. Pensa un po'. Che... E guarda, era una fotografia sulla... era una poesia più disegno, sulla Befana. Non è che ce l'hai sotto mano, vero? No, assolutamente. Io l'ho vista, ma me la ricordo così. Penso che non ce l'abbia, non l'avesse avuta più nemmeno lei, sai? Sì. E comunque ti dico quanto presto lei ha iniziato. Poi dopo quella sua tragedia, diciamo che dopo il suo spirito l'ha fatta anche superare bene, lei ha sempre scritto. E quando ha cominciato proprio a scrivere veramente, lei ha sempre vinto tanti premi. Sì, diceva prima Emilio che più che altro era conosciuta in campo nazionale. Nazionale, perché, sì. Ma lei ha partecipato. Guarda, lei ha vinto finché sono rimasta io con i miei ricordi, ma dopo ne avrà vinti ancora prima purtroppo di mancare. Aveva vinto 2000 premi. Addirittura. Di cui mille primi premi, una cosa grandiosa. Guarda, il bello è che adesso parliamo proprio di Adriana poetessa. Io sono andata a trovarla a Treviso 2-3 volte e guarda, la sua casa era una bomboniera. No, una bomboniera, era piena di quadri, di statue, di robe, tutte robe vinte i premi, perché lei vinceva proprio anche soldi, insomma, anche soldi, povere. Lei aveva un'entrata annuale, aveva un'entrata extra, diciamo, un'entrata dai. Extra, sì. Ma non è che lei lo facesse per calcolo, vinceva e o facevano il libro o veniva remunerata con l'assegno, insomma, praticamente era felice di questa certo cosa. Che mille premi, era un record. Mille primi premi, e lei era conosciuta da grandi poeti, anche dalla Maria Luisa Spaziani. Ah. Guarda, veramente la conoscevano tutti. Io sono stata con lei, penso aveva vinto un primo premio a Pestum. Addirittura. A Pestum, e ha detto, siccome aveva praticamente poteva portare una persona, lei andava sempre in giro con la mamma, perché mia zia, io mi chiamavo zia anche se non erano zie, erano cuginastri, non so, però come si dice, secondo i cugini, però io la chiamavo zia, questa certo, sua mamma, certo. Si chiamava Ita che era, stava per Italia. Ah. E andava sempre ed era una donnina piccola, voi l'avreste dovuta vedere, la mamma dell'Adriana era proprio sempre col fard rosato sulle guance, sai, una persona proprio sì, ci teneva alla sua persona proprio anche esteticamente, sì, e per quello faceva sempre i volan e le galette là sui vestitini dell'Adriana quando era piccola, era tutta così mingherlina, piccola ma tutta carina. Ma lei ha scritto diverse poesie molto belle sulla mamma. Sì, guarda, lei ha quella che parla di sua madre proprio, e era così come la descriveva lei proprio, era quella che aveva fatto la scala la scala santa sì sì, difatti ce l'ho qui sotto mano proprio, sì. praticamente guarda, no, adesso ho perso il filo, dove stavo andando? No, mi stavi dicendo che la mamma era una donna piccolina tutta, sì, che lei andava sempre dove lei vinceva, ossia quando, perché la Diana andava a ritirarli i premi. Ah, andava sempre a ritirarla. Cosa vuoi? Sta un altro discorso, che la Diana, non essendo sposata, non avendo impegni con figli, con marito, cose sì, di sì, genere, era libera. La possibilità, perché aveva un lavoro, lavorava alla Banca d'Italia, per cui insomma sicuramente erano anni che stavano veramente bene. Lei poteva andare praticamente dove voleva. Eh beh, certo. Non aveva problemi. Perciò, e guarda, noi ci eravamo perse piccole e ci siamo ritrovate perché io non scrivevo, io non avevo quelle ambizioni, io facevo figli e basta. Ma tu scrivi però, Maria Luisa? Io scrivo, sì, sì. E adesso ti spiego. Dunque, è successo che nell'81, un po' di depressione, sai, quando ti sì. voglia di buttare giù qualche succede, cosa. Succede, sì, sì. E ho buttato giù, però io in dialetto. Ah, tutto in dialetto tu? Tutto dialetto. Sì, sì. Ho buttato giù queste cose. E queste cose qua, insomma, sembrava che fossero anche buone. Per cui ho cominciato a frequentare il gruppo di poeti di Venezia, il Burchiello. E là eravamo un bel gruppo. Oltretutto il Burchiello, come associazione, raccoglieva tutti i poeti del Veneto. Sì. Io sono stata redattrice per parecchi anni, per cui insomma... Conosci bene? Li conosco certo. bene anche di nome, per quello conosco anche Emilio Gallina. Anche lui ha fatto parte del Burchiello? Certo. Sì, sì, sì, sì. Perché era un gruppo che non era di Venezia, raccoglieva tutti i poeti del Veneto, da Trento, addirittura dalla linea tedesco, era da Capodistria, da giù da... E sono passati dei bei nomi, sai, per il Burchiello, nomi, sì. Dei bei nomi, sì, tutti bei nomi, guarda, tutti, perché io li ho conosciuti un po' tutti, quelli che quando sono andata io nell'81 e dopo ho seguitato, e insomma, guarda, non dico proprio Zanzotto, non c'era. Beh, c'era Diego Valeri però. C'era Diego, no, Diego Valeri era fondatore, presidente, cos'è stato? Ha scritto il logo, verso, adesso sì. sappiamo che si chiama logo, sì, che, sì, sì, sì, sì. che c'erano i tre timonieri sul Burchiello, lui ha scritto che sto nuovo Burchiello il vada piano, il vada lontano. Sì. Ecco. A me piace Diego Valeri come poeta, mi piace. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Comunque noi eravamo tutti dialettali. Dunque io ho cominciato a scrivere e ho partecipato a concorsi e ho cominciato a vincere anch'io. Ah, che bene! Bene! Per cui un bel giorno al Goldoni, dove c'era la premiazione del premio al Boccolo, chi mi trovo? Adriana con sua mamma. Ma e allora là è stato un incontro, guarda, immagino, veramente immagino, grande, immagino, sia per la zia sia per lei. E da quel momento là noi siamo state sempre in contatto, non tanto... Non tanto non frequente, ma insomma... No, no, ma per telefono quasi tutti i giorni. Bene. Guarda. Lei mi diceva le poesie nuove che scriveva, insomma ci scambiavamo tutte le nostre cose. Perciò io ho seguitato il mio rapporto che avevo da piccola... L'hai seguitato fino alla fine, insomma. L'ho seguitato fino alla fine, fino alla settimana prima che morisse, che sono andata poveretta a trovarla all'ospedale, e lei era sempre col suo sorriso. Cara. Lei non aveva il minimo, la minima pesantezza per il male. Non era disperata, ecco, diciamo, difatti sì, purtroppo è così, insomma. Così, Maria Luisa, hai fatto un bel excursus su Adriana, e per questo noi ti ringraziamo, perché hai dato veramente un ottimo contributo. Noi sì, ti ringrazio ancora, anche il nostro Emilio. Sì, ti ringrazio, ti saluto, è stato un piacere sentirti. Abbiamo rinverdito così un momento per Adriana. Le vostre foglie. Va bene. Sì. Ma ascolta, mi permetti di leggerti una poesia di Adriana che io ci tengo tanto? Dai, dai, leggi. Guarda, veloce, veloce. È la poesia per me che ho più dentro sua. Sì. C'è un indicibile sacro. C'è un indicibile sacro tra gli arti e sotto le acque, un tenero respiro, il fuoco che a sera ingemma l'orizzonte. In questo silenzio ritma la stella di Venere e passano altissime le voci. Sulle barene il gabbiano stanco affascina più che se ritto sugli alti pinnacoli. È da questa magia che salpò lieve Venezia per imbrigliare reti di sole ed acqua dentro forme scavate nell'aria. Qui dunque visse il mio spazio primo, la mia città di raggi abbacinanti, dove l'alba ruba il violetto alle farfalle. C'è ancora un indicibile sacro qui, tra gli archi e sotto le acque. Molto bella. Certamente. Me questa poesia me la sento dentro, guarda. Te la senti tua, te la sei fatta tua. Sì, proprio mi emoziona. Bene. Maria Luisa, noi ti ringraziamo tanto. Grazie per lo spazio. E a risentirci. A risentirci, va okay. Bene. Ciao Maria Luisa. Ciao a tutti, ciao. Ecco, abbiamo sentito Maria Luisa che ci ha parlato un po' di Adriana. E adesso ci ascoltiamo una canzone, che ne dite? La quarta canzone in programma è Sempre, cantata da Gabriella Ferre. Questa è una canzone invece che emoziona moltissimo me ogni volta che l'ascolto. Ce l'ascoltiamo. Gente, tanto buio, tanto colore, tanta noia, tanto amore, tante sciocchezze, tante passioni, tanto silenzio, tante canzoni. Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Certo è così bello, anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello. Anche tu così presente, sempre, così solo nella mia mente, sempre, tu che sempre mi amerai. Nessuno canta più come un vecchio ritornello, che nessuno canta. così bello anche tu diventerai. Eccoci di nuovo con il nostro Emilio. Allora, conduci tu adesso. No, le poesie. Chiedo subito la parola perché siamo, mi pare, in ritardo. Se gentilmente legge Nei Fiordalisi degli Iridi, che è dedicata alla mamma. Eh sì, è anche molto bella come poesia. Nel Fiordaliso degli Iridi, che è tratta dall'ultimo suo opera. Sì, Incosciente saggezza, sì. Conserva ancora gli occhi di ragazza mia madre. Chissà nel Fiordaliso degli Iridi quanti hanno tuffato gli occhi e hanno sognato e si sono perduti. Veste colori solari, mia madre. Mai il cupitono del grigio, mai il funereo nero. Porta calze velate con disegni minuscoli e colletti di pizzo e jabot. Il suo buongiorno al mattino è il ricordo delle storie fantastiche che ogni notte lei sogna, in Technicolor ci dice, talvolta di principi ermigeri, ancora sa amare le favole, tal'altra di convitati di pietra, Don Giovanni impenitenti che forse le strizzano d'occhio. Mia madre oggi ha 90 anni. Infatti la mamma, come si diceva, ne ha dedicate sì. Molte ed è molto, anche un affetto molto grande. Ma anche questa qui è molto bella, molto fresca proprio. Sì. E Antonio, io cederei la parola se legge questo inno alla vita, direi, che Adriana ha fissato. Io un'anfora che racchiude tesori da il tempo e la memoria. Ho avuto, ho avuto, ho avuto. Come tenerli stretti insieme i momenti felici? Quante dita servirebbero per numerarli tutti? Se le sensazioni all'improvviso mi assalgono e i frammenti di parole e gli sguardi che turbavano, mi accorgo di essere un'anfora preziosa che racchiude tesori. Non mi importa allora che venga l'inverno dai giorni scoloriti, perché ho cuore di sole e canti di sorgente, ho piedi scalzi tra filari di viti e cortili di luna. Forse non darà gemme nuove il mio albero, ma le sue foglie sono sempre verdi ed io continuo ad amare la vita. È molto bella anche questa. È molto bella, sì. Ecco, io ritornando invece a In Saecula Saeculorum, due realtà, ma comunque una alla volta. Ed è effettivamente molto adatta a questi tempi, cioè non sappiamo conoscerti. Ci passi accanto e mostri la cicatrice rosea del costato. Ci passi accanto coi fori dei chiodi nelle mani. Ma altro ci abbaglia e non sappiamo conoscerti. Anche a metterti la mano al fianco, increduli Tommaso, saremmo ciechi e in noi stessi non arderebbero i nostri cuori. È già caduto allora sulla strada di Emmaus. Belle. Ecco, se abbiamo tempo volevo dire questo prima di dare che tu legga Testamento, sì, Gesi. Sì. L'Adriana è stata ricoverata due volte in ospedale, una prima volta, e ricordo che si andava a trovarla e desiderava ardentemente di rientrare a casa. E quindi la mattina mi arriva la telefonata. Ciao, sono Regina, finalmente sono a mia casa. Era la sua voce, era appena tornata all'ospedale. Pensa. Ed era felicissima. Cara. Aveva un entusiasmo, una gioia per rientro nella sua casa che mi sono scivolate dal telefono, effettivamente incontenibili. Sì, sì. E siccome doveva darmi appunto alchimie per una donna, dice col suo accento un po' veneziano: ti aspetto la prossima settimana e che ti vien torte alchimie per una donna, siccome mi aveva promesso. Sì. Infatti sono andato, l'ho presa, poi sfortunatamente il discorso del secondo ricovero è anche definitivo purtroppo, sì, con una grossa sofferenza, ma come diceva la cugina, sì, la Maria Luisa, che io chiamo Maria Teresa chissà perché, non ha mai perso la serenità, e c'è quella dammi una mano, è tremenda, sai. Sì, vabbè. Comunque, se vuoi leggere il testamento, ti ringrazio. Beh, anche questa qui è bella, proprio a me piace tantissimo. Nelle tue mani consegno i sogni realizzati. Falle vivere tu, se puoi, che il mio tempo già sta consumandosi. E oggi vedo più nitido il significato delle cose. Quante reti ho gettato nel mare, credendo che mi tornassero scagliate d'azzurro e di coralli. Con cadenza di respiri avevo scritto musiche su spartiti d'aria e inventato poteri magici alle mani perché mutassero i rubini le ferite. Oggi, che è l'ora dei bilanci, mi accorgo che ho lasciato indietro troppe cose. Ma ormai si è fatto tardi e l'entusiasmo si smorza nella lentezza dei gesti e il sangue più non balza nelle vene, ma è uno scorrere quieto da cui mi lascio trasportare. E sì, che a volte mi pareva d'essere un dio sulla prua della nave mentre sfidavo le avversità degli elementi. Come tutto passa e la stanchezza fiacca i corpi, lasciando solamente un bagliore nel fondo dello sguardo. È molto anche questa, effettivamente fa pensare un po'. Ecco, se Antonio nel completare il ciclo ci legge in certe notti, vale a dire il difficile, qua Adriana aveva questa caratteristica di a volte il rendersi conto del tempo che passa, quindi la sofferenza è tratto da Radici d'uomo, in certe notti. Ma abbiamo davvero perduto? Se contiamo gli aquiloni caduti, le stelle che ci sono morte dentro, allora sì, però ogni volta siamo riusciti a risorgere. Raggomitolati a riccio abbiamo aspettato la fine delle tempeste. L'esperienza però non ci è valsa. Ripetiamo errori già fatti e ogni giorno è nuova battaglia, salvo qualche momentanea pausa, come adesso, che da questa finestra sui tetti siamo taciti a scrutare le stelle. Molto bella anche questa. Certo. Ecco, io concludo. Sì? Tu concludi? Direi da In Secula Seculorum, è un'altra attualità, è un interrogativo che lei si fa e lo fa a tutti noi. Se torni in segreto, e se in segreto torni, dimmi, Cristo, quando entri nelle chiese silenziose, come ti sobbalza il cuore al riconoscerti nel corpo doloroso sulla croce? Ti sangri ancora il costato? Ti duole la mano trafitta? E adesso che sai, ripeteresti ancora il martirio? Dimmi, Cristo, davvero ne siamo stati degni? Domanda impegnativa. Certamente. Sì. Tempus fugit. Purtroppo. Siamo alla conclusione della nostra serata. Beh, è stata una bella serata, a mio avviso, Molto intensa. Se ti odisiti. No, effettivamente, cioè io mi sono anche commossa, diciamo. Quindi quando io mi commuovo vuol dire che la serata è bella, che tutto dato. E non mi resta che ringraziarti caldamente per la tua esposizione. Grazie Emilio, anche da parte mia. No, io spero che sì, Adriana senz'altro, che era qua che spiocciava, come si dice, sarà rimasta sì, un po' così contenta. Il fatto anche di ricordarla. È una voce molto importante per la poesia femminile, non dimentichiamolo, perché ha avuto per compagne molte personaggi importanti, e tra cui anche le donne, che accennava la Spaziani, ed è una voce che purtroppo a livello nazionale non è stata valutata come le altre, che effettivamente ne aveva bisogno. Bene, Antonio, io ti ringrazio perché sei sempre splendido, e ringrazio anche il nostro regista Eddie Daici. Mi associo. ti associ. Anche da parte mia. Ecco, allora, vuoi salutare tu Antonio? Ma io dirò a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori buonanotte e arrivederci la prossima volta. Una buonanotte la do anch'io. E anch'io. E affettuosamente, come sempre, vi dico ciao ciao. Notte. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.